in primo piano. Buongiorno, buon Ferragosto da Giulia Crivelli. Oggi i giornali sono molto ricchi di cronaca, con tutto quello che è successo in Egitto naturalmente, ma anche continua il fronte politico italiano con i retroscena sulla possibile richiesta di Berlusconi della grazia e poi tantissimi approfondimenti molto più ferragostani. Allora cominciamo dal Corriere della Sera, che titola appunto "Bagno di sangue, Egitto nel caos". Lo avete sentito naturalmente nei GR, ma soprattutto avrete gli aggiornamenti oggi, perché la situazione è, come immaginerete, tutta da verificare, tutta da aggiornare. Comunque al momento il bilancio, almeno ieri sera quando il Corriere è andato in stampa, il bilancio era di 278 morti. Vi segnalo, più che i dati sulla cronaca, che appunto andranno tristemente aggiornati, l'editoriale di Sergio Romano, "Il golpe del generale Devoto". Nelle ore che hanno preceduto l'intervento delle forze di sicurezza contro gli accampamenti della Fratellanza Musulmana, Mohamed El Baradei, vicepresidente del Consiglio ed ex direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, aveva cercato di convincere i militari a ritardare l'operazione. Pensava che vi fossero altri mezzi, meno violenti, per disperdere i dimostranti e temeva che un duro intervento della polizia avrebbe danneggiato l'immagine dell'Egitto a Washington e nel mondo. E l'editoriale continua a pagina 5. Oggi, al contrario dei giorni scorsi, tutte le prime 5, 6, a volte anche di più, pagine dei giornali sono dedicate a quello che sta succedendo in Egitto e non alla politica italiana. Quindi a pagina 5 prosegue l'analisi di Sergio Romano, vi leggo l'ultima parte. Gli americani non possono ammettere pubblicamente l'utilità di un colpo di Stato, ma hanno preferito sperare, almeno sino a due giorni fa, che i militari, sia pure con qualche strappo al galateo democratico, avrebbero garantito il ritorno all'ordine e alla democrazia. L'assegno annuale destinato in buona parte alle forze armate, più di $1 miliardo, è il prezzo che gli Stati Uniti pagano da molti anni per avere il diritto di parlare al Cairo con l'autorità del protettore e anche, incidentalmente, per indurre i governi egiziani a collaborare con Israele, soprattutto lungo la turbolenta frontiera del Sinai. Oggi il colpo di Stato è innegabile. Il Sinai è già una pericolosa terra di nessuno, infestata dalle formazioni combattenti dell'islamismo radicale, e il sangue versato nelle ultime ore costringerà Washington a rivedere interamente la sua politica egiziana. Il problema è anche europeo. Spero che l'Unione non si limiti ancora una volta alle compunte deplorazioni di Lady Ashton. Alcuni numeri: 1,3 appunto i miliardi di dollari che gli Stati Uniti hanno dato come aiuti militari all'Egitto, 30% la quota dell'economia egiziana in mano all'esercito, che controlla televisioni, giacimenti, petrolieri e aziende in vari settori. 440.000 le persone che fanno parte delle forze armate egiziane nella loro totalità, e solo l'esercito può contare su 350.000 uomini. Vi segnalo un'intervista all'editorialista del New York Times Roger Cohen, che per tantissimi anni è stato inviato all'estero, e è originario di Londra ma appunto ha lavorato in oltre 15 paesi. La sua conclusione è che la diplomazia esitante di Obama ha fallito. La Repubblica, Egitto, sangue e caos, anche qui moltissima cronaca, ma qui l'editoriale di Bernardo Valli, che si trova al Cairo e che ci racconta la sua giornata da inviato al Cairo. L'atmosfera mi fa pensare a una tragica espiazione. Attraverso più volte la città, mentre il bastione islamista di Piazza Nada, il più piccolo, è già stato sgomberato, ma numerosi occupanti si sono rifugiati nel vicino orto botanico, e mentre quello più grande di Piazza Rabaa al-Adawiya resiste ancora e viene dichiarato zona di guerra. Quindi davvero un pezzo vecchio stile di un inviato che ci racconta la sua giornata. Anche qui c'è un'intervista interessante, il pezzo di Bernardo Valli prosegue a pagina 3, mentre l'intervista di pagina 7 è a Gilles Kepel, che è un esperto di questioni internazionali, e ci dice ormai è una guerra civile che può disintegrare il paese, nessuno crede più nel compromesso. L'intervista è di Pietro Del Re. Vi leggo la parte che riguarda gli Stati Uniti, che appunto di cui parlava anche Sergio Romano. Oltre che opporsi all'adozione dello stato d'emergenza, cos'altro possono fare gli Stati Uniti per calmare le acque? Washington, come del resto le cancellerie europee, si trovano in un ruolo molto scomodo. Gli Stati Uniti sono accusati di aver sostituito Morsi, il quale chiuse i tunnel verso Gaza per asfissiare Hamas, ma sono anche invisi ai fratelli musulmani perché considerati primi alleati dell'imperialismo sionista. In Egitto sono dunque visti come nemici da entrambi le parti antagoniste. In questo scenario, Mosca potrebbe opportunisticamente intervenire, offrendo il suo appoggio, sia pure in un primo momento soltanto simbolico, all'esercito egiziano. E naturalmente non occorre dire quanto questo complicherebbe ulteriormente la situazione. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore, anche vi segnalo, poi passiamo alle notizie economiche, la cronaca sull'Egitto e l'editoriale di Ugo Tramballi, l'Islam politico e il rischio Siria. Vi leggo la prima e l'ultima parte. Da Rawa al-Adawiya, la piazza appunto di cui parlava anche Bernardo Valli, una moschea prima trasformata in podio per discorsi politici, ora in fortino, ieri Mohamed al-Beltagi teneva il suo primo comizio. È una personalità importante, è il leader di Libertà e Giustizia, cioè ciò che resta del Partito della Fratellanza che aveva portato Mohamed Morsi a vincere le elezioni e diventare il primo presidente eletto dell'Egitto. Vi leggo le ultime righe. Se un anno fa Morsi avesse accettato la condivisione del potere e poi la fratellanza non si fosse chiusa nelle sue piazze fino agli scontri di ieri, l'Egitto non starebbe vivendo uno dei momenti più drammatici della sua storia. Ma dicevamo le notizie economiche, soprattutto lo speciale Ferragosto che il Sole 24 Ore dedica a tutto quello che cambia per noi italiani con le ultime riforme, il decreto del fare e tutto il resto. Sono sei gli approfondimenti del Sole 24 Ore, li trovate da pagina 8 a pagina 13, sostanzialmente basta scorrere appunto la prima parte del Sole 24 Ore. Sono dedicati al bonus mobili, con questi sconti che abbiamo visto, sono pieni i giornali anche di pubblicità e di inviti di vari costruttori di mobili e associazioni, perché infatti gli sconti sono fino a 5.000 euro sull'arredo. Poi c'è l'approfondimento sulla riscossione, su come funziona il fisco a rate, sulle multe e sul fatto che oggi i vigili saranno dotati di bancomat, perché chi vuole pagare subito avrà anche degli sconti. Poi l'approfondimento consueto sulla casa, con questi sgravi super per edilizia e energia, i controlli fiscali sappiamo aumenteranno, quindi ci sarà quello che il Sole 24 Ore definisce un tiro incrociato sulle redite, sui redditi e spese, e poi l'approfondimento sul lavoro e sul fatto che sono stati introdotti, e speriamo vengano veramente attuati, più tirocini nell'università. L'apertura però del Sole 24 Ore è dedicata alla notizia che l'Eurozona sarebbe fuori dalla recessione. Avete sentito probabilmente anche nei telegiornali il commissario Olli Rehn che ha detto: esistono questi timidi segnali di crescita, ora bisogna andare avanti con le riforme. C'è una mappa della crescita del PIL in Europa, sappiamo che l'Italia è ancora purtroppo la crescita è negativa, ma la buona notizia data nei giorni scorsi è che il rallentamento della decrescita è iniziato, quindi siamo soltanto a meno 0,2. I campioni in questo momento però sono il Portogallo, che ha approfittato soprattutto di un rimbalzo dell'export. Il PIL del Portogallo nel secondo trimestre del 2013 è cresciuto dell'1,1%. Il Portogallo è molto piccolo, naturalmente. Il dato che veramente conta è quello della Germania, che cresce dello 0,7%, e da brava locomotiva dell'Europa è quella che appunto farà probabilmente la differenza. Sulla questione della ripresa nell'Eurozona vi segnalo dalla prima pagina l'editoriale di Adriana Cerretelli, storica corrispondente da Bruxelles ed esperta di questioni europee del Sole 24 Ore. Il vero rischio è brindare, dice lei, sottolineando che appunto si tratta di una ripresa fragile. Lo spread di cui abbiamo parlato tanto ieri, oggi pagina 4 del Sole 24 Ore, dedicata all'ulteriore discesa di questo differenziale tra i titoli di Stato tedeschi e quelli italiani, è sceso a quota 238. Ora si compra Italia, ci spiega il Sole 24 Ore. Vi dicevo tutti gli approfondimenti e poi vi segnalo anche il record di metà agosto a Piazza Affari, un'altra pagina di approfondimento, pagina 5 del Sole 24 Ore, quella che viene definita la rivincita del listino italiano. Milano è la borsa migliore del mondo, negli ultimi 30 giorni ha messo a segno un rialzo del 13,2%. Dalle pagine invece di Finanze e Mercati, un piccolo aggiornamento sulla questione Ligresti Fonsai. È un parterre, Cavalli e Borse Ligresti ancora in rosso, perché le due figlie di Ligresti, Ionella e Giulia, che sono rispettivamente in carcere a Torino e Vercelli, le accuse sono pesantissime di aggiottaggio, manipolazione del mercato e falso in bilancio, erano anche appassionate, avevano due passioni, la prima Ionella i cavalli, la seconda Giulia Ligresti le borse, gli accessori, aveva creato un marchio Gilli che ora è praticamente sparito, aveva anche un negozio in Via Spiga che è stato chiuso mesi fa. Il titolo del parterre, che sapete sono commenti brevi nella terza pagina del dorso di Finanze e Mercati del Sole 24 Ore, tranquilla ci pensa papà, anche nel 2012 Cavalli e Borse hanno regalato magre consolazioni alle due figlie di Salvatore Ligresti, Ionella e Giulia Maria, attualmente in carcere con l'accusa di falso in bilancio e aggiotaggio. Anzi, stando a Radio Cor, che è l'agenzia di notizie del gruppo Sole 24 Ore, l'Aità e Gilli, le due società che si occupano rispettivamente di cavalli da corse e borse, hanno perso 1,35 e 1,16 milioni, soprattutto per il venir meno delle ricche sponsorizzazioni di fondiaria SAI. E così per l'Aità l'ingegnere ha dovuto nuovamente mettere mano al portafoglio per ripianare le perdite. Dopo i 2,38 milioni versati nel 2011, nel 2012 ha dovuto sborsare altri 1,35 milioni. Stessa storia per Gilli, che dal 2011 ad oggi ha bruciato oltre 11,5 milioni, ma in questo caso aveva preventivamente messo in cassa oltre 3 milioni. Dal dorso invece di Imprese e Territori vi segnalo un approfondimento che è richiamato anche in prima pagina, visto che è giusto veramente sottolineare anche le buone notizie. Questo è un reportage di Ilaria Vesentini che riguarda il gelato. Il titolo è La crisi non scioglie il gelato artigianale. Nel 2013 i negozi in Italia sono cresciuti dell'11%. C'è stato un boom di aperture e giro d'affari all'estero. Tra l'altro sapete che l'Italia è leader mondiale nella produzione di macchine per fare il gelato, quindi è davvero una nostra eccellenza. Poi sicuramente negli ultimi anni c'è stato con l'esempio, la case history di Grom, tutto il nascere di queste catene di gelato che sì, sono particolarmente artigianali e curano particolarmente la scelta degli ingredienti. Torniamo alla prima pagina di Repubblica perché vi dicevo c'è anche tutta la questione politica italiana aperta che ha occupato moltissimo nei giorni scorsi, oggi ha lasciato spazio alle notizie tremende che arrivano dall'Egitto, però la Repubblica per esempio titola di spalla Pressing degli avvocati, Berlusconi sarebbe pronto a chiedere la grazia. Forse avete seguito, ieri c'è stata questa intervista di uno degli avvocati di Berlusconi a una radio, Radio Capital mi sembra, dove diceva Longo siamo pronti a chiedere la grazia. Poi l'avvocato è stato costretto a smentire perché in realtà è una questione molto delicata. Il primo a essere informato nel caso di grazia dovrebbe essere il capo dello Stato Napolitano, però insomma gli scenari e le voci su questa possibile richiesta continuano. E allora vi segnalo due analisi, una di Claudio Tito, La mossa del Colle che toglie ogni alibi, e poi un editoriale di Francesco Merlo, L'ammissione del condannato. Vi leggo le prime righe. Da unto del Signore a miracolato di Napolitano? L'istinto gli dice che chiedere la grazia non sarebbe umiltà, ma umiliazione. La furbizia invece gliela suggerisce come ultima spiaggia. In questo dilemma, che non è dostoieschiano ma truffaldino, Berlusconi degrada anche il nobile istituto della grazia. I suoi delitti e la sua pretesa estortiva fanno di un valore laico e religioso una merce politica. Reificata, direbbe Marx, una miseria nel mercato dei partiti, un privilegio di casta. E l'articolo di Francesco Merlo continua a pagina 32. Vi leggo l'ultima parte. E poi si muove Gianni Letta con la sua felpata agitazione. Meno probabilità ci sono di ottenere una grazia che diventerebbe non solo la vittoria del ricatto, ma anche il trionfo del peggiore politichese di corridoio, di una improbabile diplomazia dell'impunità che più lavora nell'ombra, più toglie grazia all'istituto della grazia. E sarebbe anche il premio ai giornalisti della casa che si esibiscono in esegesi dottrinaria cavillando come esperti di retorica forense sulla giurisprudenza delle prerogative del capo dello Stato. E intanto incitano le passioni di piazza e alle fiamme dell'anima per difendere non il Dreyfus italiano, ma la frode fiscale. Rimane la sofferenza che Berlusconi sta esibendo, quella sua maschera di vecchio tormentato, curvo e appesantito dal tempo e dagli stravizi. Ebbene, quel suo corpo dolente che chiede grazia da una parte ti chiama alla pietà e dall'altra ti indurisce. Più vorresti aiutarlo, più ti incupisce e ti inquieta, perché nella sua decadenza fisica c'è tutta la pessima esperienza dell'illegalità al potere, lo sbrindellamento dello Stato degli ultimi 20 anni. E visto che Merlo ha tirato un po' in causa quelli che lui chiama i giornali della casa, cioè Giornale Libero, poi vedremo i titoli appunto di Giornale Libero. Ora però lasciamo spazio agli aggiornamenti sul meteo e ci risentiamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno e buon Ferragosto da Giulia Crivelli. Abbiamo appena letto una parte dell'editoriale di Francesco Merlo sulla questione della grazia, molto duro nei confronti di Berlusconi e dei giornali che nei giorni scorsi hanno caldeggiato l'ipotesi della grazia, li ha tirati in ballo senza nominarli, Giornale Libero. E allora vediamo le prime pagine di oggi di Giornale Libero. Il giornale titola La partita di Berlusconi, grazia sì, grazia no, governo sì, governo no, il cavaliere avrebbe deciso, ma non è ancora tempo di muoversi. E l'editoriale del direttore del giornale Alessandro Sallusti, vi leggo le prime righe, tutti a cercare di capire quale sarà la prossima mossa. Berlusconi chiederà o no la grazia? Il PDL farà o no cadere il governo? Il PD romperà l'alleanza votando per la decadenza da senatore dell'ex premier? E poi la gara a interpretare il messaggio di ieri di Napolitano. Ha chiuso a Berlusconi? No, ha aperto e via dicendo. Domande legittime, ma al momento senza risposta. Troppo delicata la situazione, troppo alta la posta perché i giocatori lasciano anche solo intuire la mano. Più che altro prendono tempo, facendo girare sul tavolo carte tutto sommato inutili, nell'attesa di pescare il jolly che a questo punto può arrivare solo grazie a un errore dell'avversario. Dalla prima pagina di Libero, invece, perché mezza grazia può diventare disgrazia? E nell'editoriale Maurizio Belpietro ci fa queste tre domande a Napolitano. Re Giorgio pretende che Berlusconi invochi clemenza, ma altre volte non ne ha avuto bisogno. Prima domanda. Vuole forse pensionarlo? Seconda domanda. Che farà quando arriveranno le altre sentenze? Terza domanda. O se un PM cercherà di arrestarlo? Ci vuole una soluzione politica. E poi continua l'approfondimento di Libero sul passato di Antonio Esposito, il presidente della sezione feriale della Cassazione che ha condannato Berlusconi in via definitiva per la frode fiscale di Mediaset, e il giudice che ha condannato il cavaliere, ci spiega Salvatore Garzillo a pagina 4 di Libero, sarebbe anche implicato in una vicenda di fondi neri al Viminale in cui appunto spunterebbe il suo nome. Ma veniamo anche alle altre prime pagine dei giornali che invece sono dedicate all'Egitto. Il messaggero, Egitto in fiamme, 300 morti. E c'è poi un editoriale di Eric Salerno che torna sul ruolo degli Stati Uniti. L'errore USA, rinunciare all'Islam politico. Dalla prima pagina del messaggero però vi segnalo un commento di Marco Fortis, un economista che tra l'altro i lettori del Sole 24 Ore conoscono perché spesso interviene anche sul Sole 24 Ore. Europa fuori dalla recessione, Italia non ancora. E il commento è appunto questo. Questi dati dell'Eurostat, abbiamo visto il PIL dell'Italia non ha ancora ricominciato a crescere, ma almeno ha smesso di decrescere o cresce o decresce a un ritmo inferiore. Marco Fortis, un po' come Adriana Cerretelli sul Sole 24 Ore, ci invita comunque a prendere tutti questi dati con molta cautela. Sono, lo ricordiamo, i dati sul secondo trimestre, quindi andranno poi tutti verificati alla ripresa autunnale. Dalla prima pagina del Messaggero, però, vi segnalo un articolo che non ho trovato altrove. Il Messaggero è sicuramente il quotidiano, è un quotidiano di Roma, però è il più attento a tutte le questioni parlamentari, forse anche perché ha più giornalisti che se ne occupano. Comunque, oggi il caso è quello della Camera, dove ci sarebbe un superappalto per la gestione del sito internet. Pensate, un superappalto esterno, si parla tanto di tagliare le consulenze, e qui sarebbe un superappalto esterno per la gestione del sito internet della Camera. La base d'asta ammonta a 3 milioni e 600 mila euro per 3 anni. Montecitorio prova così a risparmiare, almeno in teoria. Ci racconta la vicenda con grandi approfondimenti a pagina 11 e ripeto. è un modo di risparmiare un po' bizzarro perché la cifra è altissima. Comunque, il giornalista del Messaggero, Luca Oranges. Ma dalla prima pagina del Messaggero, vi segnalo anche il richiamo a un aggiornamento sui quei tutti i nostri connazionali che sono in Egitto. Sapete che l'Egitto aveva avuto una grande ripresa del turismo in questi ultimi mesi. In questo momento, sul Mar Rosso, in particolare la località turistica più famosa dell'Egitto, ci sarebbero 20.000 italiani e per paura sono stati chiusi tutti i musei e i siti archeologici. Dalla prima pagina del Messaggero vi segnalo anche una notizia che poi c'è anche sulla prima pagina della stampa. Gli scienziati italiani infatti hanno scoperto il campo magnetico più potente. L'approfondimento lo trovate a pagina. Aspettate che vi dico anche il numero. A pagina 21 del Messaggero, il titolo è La calamita dello spazio. Scoperto il più potente campo magnetico dell'universo, lo ha descritto sulla rivista Nature un team tutto italiano, coordinato dall'astrofisico Andrea Tiengo. Per la prima volta è stato osservato il campo prodotto da una stella di neutroni. E Andrea Tiengo, che è appunto un astrofisico, lavora da moltissimi anni a questo tema e ora ha battuto moltissimi colleghi. Nature è una delle riviste scientifiche più importanti al mondo, quindi sicuramente una certificazione importante quella che abbia pubblicato i risultati dell'inchiesta. Dalla prima pagina del Messaggero, però, visto che abbiamo detto Messaggero così attento alla politica, c'è una conferma di questa ipotesi della richiesta di grazia e con numerosi, numerosi approfondimenti e un'intervista a Massimo D'Alema, l'ex segretario del PD, che spiega la sua opinione sulla questione. Secondo D'Alema, Berlusconi può fare il leader fuori dal Parlamento come Grillo. È una lunga intervista a Massimo D'Alema. Chi ha voglia può leggerla sul Messaggero, è a pagina 7. Il Foglio invece dedica la prima pagina sostanzialmente alla questione del Cairo con ben quattro articoli, tutti di approfondimento e anche qui forse pezzi di un puzzle per cercare di capire davvero che cosa sta succedendo. Massacro al Cairo, il Jihad si frega le mani. Questo è il titolo dell'articolo di Daniele Raineri. L'esercito spara e spazza via i sit-in dai fratelli musulmani. Ora torneranno alle versioni islamista? Poi c'è un approfondimento di Mattia Ferraresi. Golpe? Quale golpe? La Casa Bianca si tiene a distanza. La strage al Cairo dimostra che l'influenza di Obama è evaporata e gli aiuti militari non contano. Ce lo ricordavano il Corriere e la Repubblica, è una cifra enorme, di 1,3 miliardi di dollari in un solo anno, però appunto risultati scarsi. Lo schianto dei fratelli, tutta lotta e niente governo. Questo è l'approfondimento di Carlo Panella. Morsi e i suoi non hanno saputo governare l'Egitto e ora conducono i propri adepti alla guerra civile. Infine, un ultimo approfondimento. Trovate questa questione approfondita anche sull'Avvenire. Il futuro nero dei cristiani copti, prime vittime sacrificali. Gli islamisti li accusano di aver appoggiato il governo dei generali e nel Sinai è già persecuzione. Dalla prima pagina della stampa, vi dicevo, c'è la notizia raccontata da Giovanni Bignami, che è uno scienziato e un eccellente divulgatore, su quella, appunto, quella che lui definisce la spettacolare scoperta italiana, il faro d'agosto che spazza la Via Lattea. Il titolo di apertura però è sull'Egitto, anche qui una foto degli scontri, caos Egitto, centinaia di morti. E poi vi segnalo però un'intervista a Fidel di Mimmo Candito, il leader cubano. Fidel, appunto, sapete, ancora vivo, anche se ha avuto un tumore, tantissime altre malattie, però è lì al suo posto, ogni tanto qualcuno lo intervista. Fidel confessa che quei missili erano un bluff, ricorda la vicenda dei famosi missili che aveva coinvolto John F. Kennedy. Anzi, aveva messo molto in pericolo la sua presidenza. Mosca ci disse, racconta Fidel: se vi attaccano dovete difendervi da soli. Kennedy e Khrushchev si erano messi d'accordo senza avvisarci. L'approfondimento a pagina 17, un po' nostalgico se vogliamo di quell'epoca, però appunto interessante sentire a tanti anni di distanza una versione molto diversa di quella famosa crisi dei missili. A pagina 22 e 23 della stampa, 8 itinerari consigliati, Ferragosto. Ma non sotto l'ombrellone di Ferragosto, di quello che si può fare a Ferragosto, dei musei aperti o di quelli chiusi, si occuperà anche Irene Zerbini alle 9. Dalla stampa, da pagina 9, vi segnalo anche un'intervista a Piero Grasso, presidente del Senato. Il titolo è Napolitano ha bloccato la deriva, ora facciamo le riforme. In primis, naturalmente, l'auspicio che si riesca finalmente a cambiare la legge elettorale, il famigerato Porcellum, per ricucire lo strappo tra elettori e politica. Secondo Grasso, appunto, il segnale che ha dato il Parlamento di questa urgenza di riformare il Porcellum è un segnale importante agli elettori per colmare questa enorme distanza che si è creata e poi che ha dato l'origine, che ha dato è stata una delle sicuramente una dei motivi per i quali Grillo e il Movimento 5 Stelle hanno preso così tanti voti e c'è stata quella che viene chiamata l'antipolitica. Vi segnalo ancora un attimo solo l'articolo, il titolo dell'articolo di Mimmo Candido a pagina 17. Fidel Castro si confessa a 87 anni. Non credevo di vivere così tanto. Vediamo la prima pagina dell'Unità, il cavaliere di fronte alle dimissioni, quindi la fotonotizia è dedicata all'Egitto, ma per come titolo l'Unità sceglie un titolo politico e cita per esempio Scajola, Claudio Scajola, ex ministro dell'Interno e di uno dei governi Berlusconi, gli annunci prima del voto in Senato. Il Senato, sapete, deve poi pronunciarsi sulla decadenza di Berlusconi da senatore. La prima pagina del Fatto Quotidiano, se Napolitano grazie a B frode libere per tutti, questa è l'interpretazione del fatto che ha poi anche in prima pagina un articolo di Aldo Busi, se salvano lui comincio a evadere anch'io. E poi naturalmente il consueto editoriale di Marco Travaglio che si intitola Graziami ma di baci saziami con la consueta ironia. Poi la prima pagina del Manifesto che invece è dedicata alla crisi in Egitto, il titolo è Fratricidio. Esercito e polizia reprimono le piazze dei fratelli musulmani, sparano sulla folla e fanno una strage. I morti sono centinaia, uccisi anche due giornalisti, gli islamisti assaltano le chiese copte, quel tema che approfondiva anche il foglio sulla prima pagina. Si dimette il vicepremier El Baradei, i militari decretano lo stato di emergenza, l'Egitto sprofonda nel caos. Due pagine di approfondimenti sul Manifesto. La prima pagina della Gazzetta dello Sport, avete sentito l'Italia è stata sconfitta dall'Argentina ieri nell'amichevole, quindi la Gazzetta dello Sport ovviamente dedica il titolo di apertura a questo. L'Italia delude e poi la cronaca della partita, naturalmente tutti gli aggiornamenti che volete sul calciomercato. Vediamo la prima pagina dell'Avvenire, l'Egitto è nel caos. E in questo caso l'analisi è di Vittorio Parsi, l'azzardo dei generali e il dialogo necessario. Ma dalla prima pagina dell'Avvenire vi segnalo anche un interessantissimo approfondimento sulla possibilità di studiare in carcere. Abbiamo parlato del sovraffollamento delle carceri italiane e anche del sovraffollamento delle carceri americane. Anche lì si sta pensando a rendere più leggere le pene per reati appunto leggeri, per evitare il sovraffollamento di persone che sono in carcere per reati legati alla droga, per esempio, magari soltanto la detenzione e non lo spaccio. L'inchiesta è a pagina 9. Le scuole e gli istituti di pena, ci spiega l'Avvenire, sono 253, i corsi attivati 19.976. Il 7% dei detenuti però resta analfabeta e il 21,1% ha solo la licenza elementare. Secondo l'Avvenire, appunto, studiare in carcere è un'arma da potenziale perché diminuisce moltissimo il rischio di recidiva una volta che le persone escono dal carcere. L'approfondimento, ve lo dicevo, è a pagina 9 con tutti i numeri che fotografano la situazione e l'approfondimento di Toccafondi, che è il sottosegretario all'interno, che ci spiega non è un'ora d'aria questo il fatto di poter studiare in carcere, ma apprendimento vero. Però mancano aule, materiale didattico e insegnanti. Vi dico però, vi leggo una delle domande e risposte: chi sono i docenti in carcere? Per esempio, sono professionisti che prestano servizio sia nelle scuole normali che in carcere. Alcuni, quelli più motivati, lavorano anche da decenni soltanto in carcere. La loro è una vera vocazione e sono questi a spingere per potenziare l'offerta. Sono i primi a poter testimoniare quanto sia utile studiare in cella. Alcuni hanno portato detenuti fino alla laurea. Vediamo poi, passiamo un po' alle pagine interne, poi le riprenderemo anche dopo la pausa per il traffico. C'è una notizia che trovate anche su Repubblica, ma prendo l'articolo di Massimo Gaggi del Corriere. Il pianoforte di Liszt e John Lennon comprato dal mago di Wall Street. Scusatemi, non è di Massimo Gaggi, ma di Fausta Chiesa. E il tema è appunto quello della vendita di questo storico marchio Steinway che è andato a Paulson, il re dei fondi speculativi. Ci ricorda Fausta Chiesa che, per esempio, fu proprio su un pianoforte Steinway che l'ex Beatle compose, John Lennon compose Imagine, che è l'inno alla pace che ancora adesso viene cantato e suonato in tantissime occasioni. Era appunto, mancavano pochi secondi e ora è arrivato il momento degli aggiornamenti sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno e buon Ferragosto da Giulia Crivelli. Vi segnalo dal dorso dedicato a Milano e alla Lombardia del Corriere della Sera una risposta all'articolo che avevamo letto ieri sulla spending review in atto negli ospedali milanesi che avrebbe, così spiegava ieri il Corriere, portato a tagli nei posti letto e nelle sale operatorie. Oggi interviene sul Corriere, l'assessore Mantovani e spiega che è una scelta giusta, doverosa e obbligata in tempi di spending review e non comporta rischi per i pazienti. Questo tra l'altro vi segnalo che ieri ci hanno scritto un paio di ascoltatori medici, uno dell'ospedale Sacco in particolare ha dettagliato molto, un cardiologo dell'ospedale Sacco, spiegandoci che in realtà è vero che ci sono meno medici, meno infermieri in servizio e ci sono meno posti letto occupati, ma questo è fisiologico in una città che come Milano in agosto di fatto si svuota. E ne parlavo anche ieri, aggiungo questa nota personale con mio padre che ha fatto il medico ospedaliero per tutta la sua vita e diceva non si può tenere un ospedale a pieno regime in agosto perché di fatto diminuiscono le necessità di ricovero, quindi se le persone devono andare in ferie o devono smaltirle per forza, come capita anche in tempi di spending review, è il momento giusto. Non necessariamente ci va di mezzo una buona sanità, un'offerta di cure adeguate a chi invece comunque anche in agosto ha bisogno dell'ospedale. Dalle pagine interne della Repubblica vi segnalo un'intervista a Francesca Monaldi, che è lo storico commissario della squadra anti-stalking della Questura di Roma. Abbiamo parlato tanto di femminicidio nei giorni scorsi e qui c'è una persona che è in prima linea appunto a parlare con le persone vittime di stalking. Poliziotti, psicologi e medici insieme, così aiutiamo le vittime a denunciare. Domanda Corrado Zunino a Francesca Monaldi. Dopo anni di lavoro sul tema, ha capito perché molte donne accettano un certo livello di violenza? E lei risponde: no, non capisco come una donna possa prendere uno schiaffo. Uno schiaffo può essere un episodio, ma più probabilmente è un campanello. E quindi cosa ha compreso delle donne che subiscono violenze? Che a volte hanno lo spirito delle crocieressine, credono di poter redimere. Più spesso hanno figli, tengono insieme la famiglia per loro. La crisi economica poi ha acuito tutto. Le tensioni familiari sono cresciute e divorziare da un uomo sbagliato è diventato molto difficile. Dalle pagine interne del giornale invece vi segnalo una delle mitiche interviste di Stefano Lorenzetto, che è sicuramente un grande giornalista e credo che abbia raccolto anche in un paio di libri queste lunghe interviste che fa a quelli che lui chiama tipi italiani. Oggi è l'intervista a Marcello Mastrocola, chuchà dei soldati americani, intercettatore in un centro CRIP della NATO, oggi vive a San Diego, ma riassume nel sommario al giornale con questo virgolettato. Di Mastrocola, appunto, che tragedia tornare in Italia. Il titolo è: La voce dell'Everest decifrava i messaggi in codice dei russi. Annunciò al mondo la conquista della vetta, storia dello scugnizzo che addestra i piloti sulla Midway, che è una portaerei americana. Ho rischiato di preparare gli attentatori dell'11 settembre. Consigli ai giovani: venite negli Stati Uniti solo se siete pronti a lavorare per 10 ore al giorno e anche di sabato. E una delle ultime domande di Lorenzetto è: non è stato bello scoprire che spiavate i diplomatici stranieri? Naturalmente si riferisce allo scandalo della National Security Agency di recente. Dopo gli attacchi alle Torri Gemelle, risponde Mastrocala, siamo costretti a vivere così. Una mia amica democratica era indignatissima per questa storia. Le ho chiesto: ma tu hai qualcosa da nascondere? Risposte: io no. E allora di che ti preoccupi? Dalla pagina interna poi del giornale, la sezione di cultura che si chiama Album, un approfondimento su quella che Paolo Giordano definisce la coppia impossibile, cioè Freddie Mercury e Michael Jackson, i duetti di Jackson e Mercury dimenticati tra droga e follie. In autunno, infatti, usciranno i brani incisi nel 1983, al culmine delle rispettive carriere. Era previsto già allora un disco, ma naufragò: troppi animali in studio e coca in salotto. La prima pagina della Padania, prima il lavoro, un titolo diciamo un po' diverso da quello di tutti gli altri giornali, ma in Italia esiste l'emergenza lavoro, con un'intervista a Roberto Cota, governatore del Piemonte. Contro la disoccupazione, come Regione Piemonte abbiamo ideato un modello innovativo, i cantieri di lavoro. Le risorse vanno ai comuni. Lo stanziamento sarà di 4 milioni di euro, soldi ben spesi. Il governo centrale dovrebbe pensare a qualcosa di questo tipo. Tra l'altro la Padania riporta anche uno studio della CGA di Mestre che mostra come 2 su 3 dei nuovi posti di lavoro siano creati dalle piccole e medie imprese. Un dato molto interessante che in fondo non stupisce perché sappiamo che noi siamo, l'Italia è il paese delle piccole e medie imprese, appunto, che vengono definite la spina dorsale del paese. Vi segnalo anche da Libero, prosegue l'interessante inchiesta sulla sanità, di cui tra l'altro continuerà a occuparsi anche alle 9 Irene Zerbini. Oggi le 2 pagine dedicate da Libero, anzi sono 3, e sicuramente l'inchiesta proseguirà nei prossimi giorni, riguardano altre regioni. Ieri c'era la Lombardia soprattutto, oggi Liguria e Sardegna. Toscana, Emilia-Romagna, Campania e Puglia, con la classifica degli ospedali più efficienti, anche divisi per patologia, quindi dall'infarto all'ictus, dal bypass alla colicistectomia, cioè l'asportazione della colecisti, frattura del femore, eccetera. Dalle pagine interne della Gazzetta vi segnalo un dato interessante, un'inchiesta intitolata Tutti allo stadio, abbonati che scalata. La Serie A è a più 28.000. Quindi rispetto a Ferragosto di un anno fa sono i 12 club a crescere, Fiorentina, Milan e Verona i milioni, a Cagliari niente tessere. Quindi forse il fatto che la sicurezza sia un po' migliorata, che sia un po' di tempo che non sentiamo di brutti incidenti allo stadio, ha riportato gli abbonati allo stadio. Questa è una buona notizia, perché spesso si dice che insomma, le squadre di calcio guadagnano molto con le trasmissioni, con i diritti televisivi, ma non avrebbe senso tutto questo se gli stadi fossero vuoti, e purtroppo in Italia avevano cominciato a svuotarsi. Dalle pagine interne della Gazzetta vi segnalo anche l'aggiornamento sulla questione Federica Pellegrini, la trovate anche su altri giornali, ma è giusto forse segnalarla dalla Gazzetta. Il titolo è sulla replica che ieri la federazione ha fatto al tweet in realtà di Federica Pellegrini, che ha lanciato un po' questo sassolino dicendo: per le mie medaglie ho guadagnato soltanto 3.000 euro. Pellegrini ha preso 750.000 euro, questa sarebbe in realtà la cifra presa che il CONI avrebbe dato a Federica Pellegrini, e solo in premi e borse di studio in 6 anni. E poi Federica, che però ha di nuovo risposto: sono allibita, tutte le medaglie, insomma una brutta polemica tutto sommato, che però continuerà, perché per ora su queste cifre c'è ancora un po' un balletto e non è appunto chiaro quanto Federica abbia in effetti preso per i suoi innegabili successi nel nuoto. Visto che oggi è anche un giorno in cui sono in edicola 2 settimanali, quello della Repubblica il venerdì e poi l'Espresso. Ieri c'era Panorama, l'abbiamo segnalato con lo speciale su come capire se veramente riusciamo a rilassarci in vacanza, visto che partiamo per le vacanze con 1.000 aggeggi tecnologici che in molti casi ci rendono connessi anche alle vicende di lavoro, e quindi non si riesce davvero a staccare. Ma vi segnalo da pagina 51 dell'Espresso un articolo di Tommaso Cerno. Abbiamo parlato tanto di omofobia in questi giorni, un po' perché dopo le vacanze verrà discussa la legge sull'omofobia, e un po' perché c'è stata quella tragica vicenda del ragazzo di 14 anni che si è suicidato a Roma perché vittima di mobbing, perché appunto omosessuale. L'articolo di Tommaso Cerno, che oltre ad essere un giornalista d'inchiesta dell'Espresso, è anche direttore e dirigente nazionale dell'Arcigay, ha fatto coming out tantissimo anni fa. Il suo articolo si intitola "Ora il PDL vuole il salvacondotto gay". Solo uno sciocco può pensare che basti una legge per fermare l'omofobia, ma proprio per questo, di fronte alla violenza quotidiana contro migliaia di gay, lesbiche e trans, di fronte a tragedie come quella del 14enne romano che si è ucciso, un paese civile ha il dovere di legiferare. Votare una legge non significa infatti illudersi di cancellare i delitti, altrimenti in Italia non avremo né mafiosi né assassini. Significa sancire che lo Stato sta da una parte e il delinquente sta dall'altra. Vi leggo l'ultima parte. Quale cattolico potrebbe... in realtà non basterebbe leggere l'ultima parte perché il ragionamento è complesso, però... Qual è secondo CERN la soluzione? Tornare al testo originale, appunto vi dicevo il testo è in discussione, è molto controverso, con le sue 250 firme, anche del Movimento 5 Stelle, una legge migliore di quella uscita dal presunto accordo tra i partiti, un accordo al ribasso che secondo Tommaso CERN non sarebbe nemmeno riuscito. E in questo caso gli unici a rimetterci in questo pasticcio sarebbero i gay, perciò un invito a rivedere dopo le vacanze con maggiore serenità magari il testo sulla legge appunto contro l'omofobia. Dalle pagine interne del Corriere della Sera, visto che siamo in tema ancora ferragostani di vacanza, vi segnalo un approfondimento di Paolo Conti sulle tendenze. Olandesi d'Umbria, colonie anglosenesi, nei borghi che rivivono grazie agli stranieri. È una storia appunto di tutti questi stranieri che hanno preso a cuore forse più di quanto riusciamo a fare noi italiani. Alcuni borghi, alcuni luoghi forse non tanto noti del nostro stupendo paese. Airoli in Liguria è una piccola e felice Unione Europea, per esempio, ci ha raccontato Paolo Conti, il 31% di chi ha una casa qui arriva dall'estero. Dalle pagine interne di Repubblica è richiamato in prima pagina un articolo copre ben tre pagine, dalle R2, l'approfondimento culturale della Repubblica, un articolo di John Grisham, pubblicato originariamente sul New York Times, Il prigioniero di Guantanamo, che racconta come John Grisham abbia scoperto, scrive lui, poco tempo fa ho scoperto che alcuni miei libri erano stati proibiti nel carcere di Guantanamo. Pare che i prigionieri li richiedessero, gli avvocati glieli portavano, però i libri venivano respinti per il contenuto non ammissibile. Poi in realtà adesso anche ai prigionieri di Guantanamo è consentito leggere i libri di John Grisham. Dalla Repubblica vi segnalo anche una chiacchierata di Antonio Gnoli con Paolo Maurenzi, che è diventato famoso con il suo libro La variante di Lüneburg, che è una mossa particolare degli scacchi. L'articolo riguarda appunto gli scacchi, la chiacchierata. Il dio degli scacchi, Maurenzi, ogni partita è una guerra contro l'infinito. Il nostro tempo è finito, ma i giornali oggi davvero sono pieni di approfondimenti interessanti. Domani non ci sentiamo perché invece domani i giornali non saranno in edicola per una forse bizzarra regola, i giornalisti della carta stampata a Ferragosto non lavorano, lavorano invece i miei colleghi della radio e anche i colleghi del sito, quindi per tenervi aggiornati, potete ascoltare Radio 24, collegarvi al sito del Sole 24 Ore e noi ci sentiamo domani ancora buon no, ci sentiamo sabato con i giornali, ancora buon Ferragosto da Giulia Crivelli.